L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che così trasmettiamo in diretta questa volta, perché abbiamo voluto cogliere l'occasione di una protesta che si è svolta questa mattina, che poi continuerà nel pomeriggio, nel comune di Capaccio Pestum. Quindi siamo in campagna, in una zona notissima perché è quella del sito archeologico di Pestum, quello che fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, una protesta contro la realizzazione di una centrale a biomasse. Allora, tra poco ci collegheremo con tutti i protagonisti, però prima di tutto abbiamo pensato di fare un servizio alla collettività e a noi stessi, dando a tutti l'informazione di precisa su che cos'è una centrale a biomasse, quali sono le biomasse appunto che vi vengono inserite, quali sono le dimensioni, le possibili preoccupazioni, e abbiamo voluto fare questo approfondimento con qualcuno che sia ovviamente fuori dalla questione Pestum, ma con un collega, un giornalista, si chiama Marco Gisotti. Appunto giornalista, divulgatore, collaboratore anche delle istituzioni, direttore della rivista Tecneco, che è un trimestrale che tratta di ecologia, bioedilizia e appunto energia alternativa. Allora cominciamo a fare il quadro con Gisotti e poi sentiamo i nostri ospiti. Le biomasse sono degli impianti per la produzione di energia, nelle quali viene introdotta la biomassa, appunto, che si tratta di materiali teoricamente di scarto, legno, cippato, paglia, ma possono anche essere biomasse liquide, vari tipi di olio, possono essere oli di palma, di girasole, di soia, oppure ci possono essere biomasse di carattere gassoso, che comunque si estraggono sempre a partire da letame, residui organici, mais, eccetera. La centrale cosa fa? Trasforma, essenzialmente brucia queste biomasse, e dal calore che si ottiene poi ovviamente si produce del vapore, ci sono delle turbine che trasformano questo vapore in energia elettrica, e questa energia elettrica viene utilizzata o immessa in rete o utilizzata da impianti connessi alle stesse centrali a biomasse. Sembra molto semplice, ma in realtà si tratta di una tecnologia in continua evoluzione ormai da decenni, e poi dipende dal tipo di impianto, dalla grandezza, possono essere impianti al di sotto del megawatt, impianti che magari aiutano le attività agricole nel recuperare una parte dei loro scarti e quindi l'energia prodotta, che può essere anche soltanto quella calorifica o quella elettrica, viene riutilizzata nell'industria. Possono essere centrali da un megawatt, sono quelle più diffuse nel territorio italiano per ovvie ragioni di incentivo e anche di gestione. Ci sono, ce ne sono per esempio in Calabria, centrali addirittura arrivano alla grandezza di 46 megawatt. È chiaro che da un lato c'è l'aspetto positivo, io utilizzo uno scarto di lavorazione, per esempio il legno o il cippato agricolo o la paglia, e invece di far trasformarlo in rifiuto e quindi con una perdita economica secca, lo utilizzo per farne energia. È chiaro che le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, per esempio per i cambiamenti climatici, si azzerano, perché tanta energia è stata fissata da quel materiale, tanto carbonio è stato fissato da quel materiale, tanto carbonio immetto in atmosfera. Però non sempre è così semplice il processo, e teoricamente un processo virtuoso può diventare anche problematico, perché comunque ci sono dei residui dalla combustione, ci sono varie tipologie di emissioni, dal monossido di carbonio a vari tipi di ossido di azoto, persino composti organici volatili come il benzene per esempio, i vari particolati che, se non vengono stoccati, recuperati in fase di emissione adeguatamente, possono disperdersi sul territorio. L'altro problema è da dove arrivano le biomasse, perché un conto se la biomassa utilizza lo scarto di lavorazione in loco o colture in loco, ci sono posti in Italia dove la biomassa per esempio si fa con l'agricoltura residuale, utilizzando, che so io, piantagioni di cardo, perché quel terreno è talmente qualitativamente basso che posso coltivare solo cardo, che per l'alimentazione può essere scarso, lo utilizzo per fare biomassa. Però ci sono casi, e in Italia ce ne sono stati e ce ne sono tuttora, dove le biomasse vengono importate dall'estero. Ci sono impianti a biomassa che utilizzano olio di palma che arriva dal sud-est asiatico. È evidente che il vantaggio ambientale del consumo in loco e dell'annullamento della CO2 in questo caso diventa più problematico. Spesso si lamenta anche la grandezza e la tipologia degli impianti per l'impatto a suolo. È evidente che questo per impianti piccoli è irrilevante o tendente all'irrilevante. Per impianti più grandi è evidente che un impianto di quel tipo messo in una campagna di un certo tipo, con un paesaggio di un certo tipo, ha degli impatti che vanno valutati con attenzione. La legge consente qualunque tipo in realtà di rifiuto secco, sono state fatte una serie di deroghe che oggi consentono di mettere appunto dentro una centrale a biomasse anche materiale meno nobile, materiale che non sia nemmeno come dire, scarto di potatura, diciamo così, e questo è un altro diciamo, dei problemi, sempre in presenza di una centrale che non funziona bene. Cioè una centrale fatta bene, l'emissione è praticamente piccolissima, quasi tendente allo zero, anche se anche questa può essere contestata e in alcuni casi misurata. Quali alternative ci possono essere? Se io ho tanti scarti appunto agricoli, tanti sfalci, cosa posso altro fare d'altro? Dipende dal tipo di scarto agricolo che ho. È evidente che oggi la biomassa è la trasformazione energetica, la trasformazione in biocarburanti, che però il biocarburante alla fine del ciclo o lo metto in un mezzo di locomozione, un'automobile, un camion, o lo metto per produrre calore, sempre quella fine fa, è il finale migliore, il finale oggi più efficiente possibile. Raramente, perché posso anche fare del compostaggio per una parte dello scarto diciamo agricolo, dello scarto alimentare, e sicuramente col compostaggio appunto posso andare ad alimentare i terreni. Non tutto è così, non tutte le filiere sono controllabili. Il segreto, chiamiamolo così, della green economy è che non c'è una soluzione valida per tutti, sempre in qualunque posto. Occorre vedere qual è il problema e che tipo di soluzione in quel luogo e per quel tipo di problema può essere applicata. Insomma, questo è il quadro delle centrali a biomasse per come si fanno, le preoccupazioni che possono dare, che ci ha fatto Marco Gisotti proprio pochi istanti fa, prima della messa in onda di questa trasmissione, che dedichiamo appunto, come dicevamo, alle preoccupazioni della popolazione del comune di Capaccio Pestum, dove da molto tempo si discute di questa realizzazione di questo impianto. Allora, abbiamo in collegamento con noi, in attesa di trovare il sindaco di Capaccio, Italo Vozza, che ci ha dato il suo ok alla trasmissione ma al momento non è raggiungibile. Abbiamo in collegamento con noi già invece due dei portavoce del comitato, dei tanti comitati che sono nati sul territorio per opporsi o comunque per chiedere chiarimenti sulla realizzazione di questo impianto. Simone Pepe, benvenuto. Benvenuto, grazie. E Gianfranco De Rosa, che non so se è al telefono con te Simone o se ha poi dopo scelto di stare da un'altra parte con un altro telefono. È qui con me, ho il piacere di guardarlo negli occhi, però è un'altra. Benissimo, allora io credo, se avete potuto sentire, almeno tu Simone che eri al telefono, anzi prima di tutto diciamo che Simone è promotore insieme a tanti altri della pagina Facebook No Biomass in Pestum, lo diciamo anche per chi volesse poi seguire questa pagina che sta crescendo molto, che ha poi si sono dati da fare questi aderenti, hanno fatto anche una petizione su change.org contro la realizzazione di questa centrale. Dicevo, Simone, tu hai potuto sentire quello che ci diceva Gisotti, ha riassunto un po' tutte le vostre preoccupazioni? Sì, io credo proprio di sì, nel senso che giustamente Gisotti poneva due tipi di problemi. Uno che è tecnico ed è collegato proprio alla capacità di una centrale di bruciare anche materiali meno nobili, che è una delle nostre preoccupazioni, suffragata dal fatto che purtroppo viviamo in una regione che è in emergenza rifiuti, come ben sapete. La seconda è di ragione appunto paesaggistica, cioè stiamo parlando di un patrimonio dell'umanità, no? Di Pestum. Io penso che tutti gli ascoltatori di Radio 24 l'abbiano vista, oppure invito a cercarla in Google per capire di che stiamo parlando. Certo. E quindi, no, certo, dicevi, le preoccupazioni sono quelle, ecco, quindi non è che non siamo andati fuori dal seminato, diciamo, con questa intervista. No, assolutamente. Allora, ci ha raggiunto il sindaco Italo Vozza, benvenuto. Sì, grazie a voi, buongiorno. Allora, sindaco, io le chiedo, prima di proseguire, di dirci un po' a che punto siamo con questa centrale contro la quale si protesta, si è protestato anche oggi. Però l'iter, diciamo, da un punto di vista della realizzazione di questa centrale, mi pare sia andato ormai piuttosto avanti. Ci riassume un po' la situazione? Allora, il 1 aprile 2014, quindi tra poco sono 2 anni che stiamo combattendo questa battaglia, la Regione Campania ha indetto una conferenza di servizi in base alla legge 387 del 2003, che va in deroga un po' a tutte le autorizzazioni locali per questo impianto di biomassa nel comune di Capaccio. Chiaramente dal primo momento ufficialmente ci siamo opposti in questa conferenza di servizi e dopo varie vicissitudini, finalmente a febbraio 2015 il sindaco ha dichiarato in seno alla conferenza di servizi che questo impianto ormai dalla tecnologia un po' superata avrebbe provocato danni alla salute delle persone. Quindi siccome la regione Campania e ARPAC e altri enti della regione Campania hanno dato parere favorevole, però il sindaco come autorità sanitaria... Lei dice il sindaco nell'intendere se stesso? Io. Ok, va bene, no, chiarissimo. Che praticamente questo faceva danno alla salute. C'era un contrasto tra due enti, diciamo, pubblici e di conseguenza la regione Campania se ne è lavata le mani e ha mandato tutto al Consiglio dei Ministri, dove abbiamo iniziato un nuovo iter, dove siamo stati presenti noi come comune e abbiamo ribadito la nostra contrarietà all'impianto. Al di là del fatto che è un impianto che dovrebbe bruciare, diciamo, la sanza di olive e quindi nel nostro territorio non se ne produce di questo materiale, quindi dovrebbe venire da fuori, e noi abbiamo ribadito il problema della salute. Poi l'ASL di Salerno si è espresso finalmente in questa seconda fase lì al Consiglio dei Ministri in senso negativo. Il Ministero della Salute presente a Roma ha chiesto un parere del suo organo tecnico, dell'Istituto Superiore della Sanità, certo. Il quale Istituto Superiore della Sanità tutto ha dato fuorché un parere positivo, anzi ha espresso in quattro pagine molte perplessità sul progetto. Visto questo parere non positivo dell'Istituto Superiore della Sanità, contrario del sindaco, contrario dell'ASL, parere favorevole del Ministero dell'Ambiente, badate bene. Quindi per ora è l'unico che ha detto sì, a parte la regione, il Ministero Ambiente. La regione è anche sì, tutti. Ma sto facendo l'elenco dei sì e dei no. Sto facendo l'elenco, sì. Poi non so, anche l'ANAS ha detto di sì, i Vigili del Fuoco, cioè tutti questi organi che in effetti sono molto ma molto marginali, però in una conferenza di servizio fanno numero praticamente. Però la cosa, diciamo, molto ma molto, come dire, io non so che. Sono veramente costernato, è che il Consiglio dei Ministri dà un parere favorevole nonostante ci siano grosse perplessità per iscritto dell'Istituto Superiore della Sanità e contrarietà da parte dell'ASL, Dipartimento di Igiene e Salute di Salerno e del sindaco come autorità sanitaria. Quindi è un fatto assurdo. Detto questo, l'8 di gennaio questo Consiglio dei Ministri, il Comune immediatamente ha impugnato questo provvedimento al TAR Lazio dando mandato allo studio legale del professor Guarino di Roma. Quindi siamo al TAR a questo punto? Siamo al TAR, arrivati a questo punto. Con che tempi? Non si sa. Perché poi non si sa, noi sono il professore Guarino ha detto che a metà febbraio presenterà tutte le memorie, chiederà per primo la sospensiva e poi si andrà al merito. Nel merito, cioè, però lei capisce bene, un provvedimento del Consiglio dei Ministri, visto il parere negativo del Comune, visto il parere negativo dell'ASL, visto il parere sicuramente non positivo di istituto, si autorizza. Io non so se un provvedimento si possa scrivere così, faccia lei. È un po', sì, lascia un po' a desiderare, diciamo, ecco, questa cosa. Non c'è poi dopo quello. Le carte sono queste. Le carte sono queste. E sono due anni di battaglia quando una conferenza di servizi giustamente dura qualche mese. Siamo riusciti a procrastinare due anni, poi le devo dire anche un'altra cosa, questo benedetto finanziamento, chiamiamolo benedetto, per non dire un'altra parolaccia, al 31/12/2015 era finito, era perso. Il governo di questo tipo di finanziamento ha dato 6 mesi di proroga, perché altrimenti questa ditta privata l'avrebbe perduto il finanziamento, visto che era procrastinato di avere praticamente concluso l'iter delle autorizzazioni. Sì. Siamo oramai a 2 anni, aprile a marzo, fine marzo fanno 2 anni di battaglia, tra virgolette. Allora, la ditta privata, la società che dovrebbe realizzarlo, si chiama BioCogein. Esatto, io dico agli ascoltatori che abbiamo provato a contattarla, a chiedere che intervenissero a questa trasmissione, se ne avevano piacere. Non parlano, direi, da un anno con nessuno praticamente, quindi vabbè, era un tentativo che andava l'abbiamo fatto. Io non so se un imprenditore, che è una persona, sicuramente una persona per bene, possono andare a fare... impresa su un territorio che è tutto contro. Cioè, io non lo so, anche dal punto di vista morale. Questo non so se rientra tanto nelle valutazioni. Sicuramente dovrebbe rientrarci il fatto che nella vostra zona non si produce quello che a loro serve. Benissimo. Questo mi sembra che anche da un punto di vista imprenditoriale, no, significa muovere camion, fare spendere più di quanto non si deve. Sono strade comunali che sono comunque strade comunali. Lei sa benissimo che le strade comunali non sopportano dei camion di quintali e quintali di peso, non sono larghe, ma insomma è tutto veramente tutto fuori dalla norma. Io direi questo è tutto paradossale. Sindaco, devo fare una piccola interruzione perché abbiamo uno spot pubblicitario, poi rientriamo e abbiamo anche altri ospiti, quindi le chiedo una cosa rapidissima, diciamo, come risposta quando poi rientriamo dopo la pubblicità, ed è il fatto che se è vero, come mi è stato detto, che se qui venisse tutto bloccato, voi poi vi troverete come comune a pagare una penale, ma ce lo dice tra poco. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo a parlare del progetto di centrale a biomasse a Capaccio Pestum. Con noi c'è il sindaco Italo Vozza. Allora, appunto, è vero che dovreste pagare che dovreste affrontare anche delle spese nel caso si bloccasse tutto? Assolutamente no, io non penso che dovremmo pagare una penale per chi e per che cosa, per un progetto che è fuori da qualsiasi logica nel nostro comune. È chiaro che noi saremo pronti come comunità, perché il sindaco rappresenta la comunità, ad affrontare qualsiasi battaglia legale per far vincere le nostre ragioni. Qua stiamo parlando che questo impianto, al di là del fatto che produrrebbe danni alla salute, produrrebbe sicuramente dei danni occupazionali nella filiera del turismo, nella filiera agroalimentare, nella filiera zootecnica, perché sa che la mozzarella di Pestum è una mozzarella DOP, è una mozzarella di altissima qualità. Certo. Quindi quasi significa che si perderebbero posti di lavoro, e qua il governo ogni giorno ci fa tanti proclami che ha fatto sì che ci siano dei nuovi posti di lavoro, e poi con una mano, con l'altra mano, firma un provvedimento del genere che fa perdere posti di lavoro. Quindi bisogna veramente che chi... Bisogna intervenire, bisogna ragionare su un piano... Si faccia un esame di coscienza, perché questo comunque è un finanziamento di una ditta privata, e quindi è un finanziamento che... sicuramente non è un'opera pubblica. Qua non stiamo parlando di un'opera pubblica. Allora la fermo perché lei ha parlato di turismo, e con noi c'è Agostino Ingenito, che è il presidente dell'Associazione Italiana Ospitalità e Ricettività Diffusa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, ci dica un po', questa centrale, no, come mi aveva spiegato, per alimentarla bisognerebbe portarci appunto le biomasse, e queste biomasse vengono su dei camion che passano per l'appunto accanto a questa pregiatissima perla che voi avete, che è l'area archeologica. È così, no? Questa è la situazione? Quindi... È proprio così, il sindaco aveva ragione quando parla delle strade che conducono poi alla famosa area archeologica dei templi di Pestum, che è uno dei siti più celebrati al mondo e che è stato riscoperto nel Settecento, tra l'altro negli appunti del famoso autore Goethe, il cosiddetto viaggio nell'area del sud Italia, che porto poi a Pompei anche Pestum. Sembra paradossale che appunto il governo possa autorizzare la creazione di questa struttura, di questa centrale biomassa, proprio a fianco, molto vicino a questo sito archeologico impareggiabile che tutto il mondo ci invidia. E certo, e questa è una grave preoccupazione. Allora, abbiamo ancora in collegamento Gianfranco De Rosa, che abbiamo sentito proprio all'inizio per un saluto. È ancora con noi? Sì. Sì, sono qui. Lei sta seguendo tutta questa vicenda, è un avvocato fin dall'inizio, quindi immagino anche con un supporto legale al comitato di cui sì, fa parte. Prima ancora di essere un avvocato sono un cittadino, questo è il discorso. Beh, questo a lei è un vantaggio, diciamo, oltre a essere cittadino ha anche delle competenze. Forse può essere un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio, perché purtroppo conoscere la disciplina normativa di questo paese delle volte fa stare ancora peggio, questo è il problema. Perché diciamo che questi impianti sono favoriti dalla disciplina statale, questo è il vero problema. Noi abbiamo una conferenza di servizio che di tutto si preoccupa tranne che del parere dei cittadini, questo è il punto. Cioè gli enti che vanno lì in regione, in questo caso alla regione Campania, non hanno mai ascoltato quello che era il bisogno, quella che era la voce dei cittadini, e questa è la tristezza maggiore. Poi con una tipologia di impianto che comunque al di sotto del megawatt e che per legge purtroppo in Italia non è prevista la via, quindi non è prevista nessuna valutazione di impatto ambientale. Sono delle scelte scellerate del legislatore che purtroppo poi fanno creare questi problemi e creano, diciamo, delle storture proprio a tutto il sistema, perché è impensabile che a Pestum, nel luogo per eccellenza della cultura, ci troviamo a parlare di centrale a biomasse, questo è il punto. Ed è impensabile che non ci sia nemmeno l'idea di fare una valutazione di impatto ambientale di questa opera scellerata che vogliono creare. Dunque, De Rosa, mi può passare Simone Pepe per un istante, che con lui avevamo concordato così di dare una piccola descrizione dell'area in cui dovrebbe sorgere questo impianto, perché dicevamo prima non è vicino a non è un'area agricola, non è cioè non è quello che serve, non c'è quello che serve per questo impianto. Allora Simone, se puoi dacci una piccola descrizione di dove dovrebbe sorgere l'impianto e che cosa c'è intorno. Sì, l'impianto dovrebbe sorgere in sostanza a pochissimi metri, centinaia di metri da vasche di irrigazione che si usano per l'agricoltura, da una scuola, quindi parliamo da 1,2 km, 1,6 km da una scuola, da diversi, diciamo, abitazioni e soltanto a 3 km dal più grande agglomerato, diciamo, di case. Io poi vorrei precisare che questo tipo di impianti ovviamente potrebbe avere, quindi emettere delle sostanze inquinanti che vanno quindi a contaminare le falde acquifere e queste vasche di irrigazione. La nostra preoccupazione poi si aggiunge al fatto che i camion che dovrebbero portare le sostanze andrebbero a circolare su una strada che ovviamente per ragioni turistiche è fortemente congestionata, specie nelle stagioni estive. Io credo che in tutto questo, diciamo, quello che fa più male è che si tratta di vedere davanti ai nostri occhi una miopia strategica della politica, cioè la capacità di non avere un programma territoriale. Nel momento in cui si vede a Pestum, quindi certificazioni di qualità di prodotti, un patrimonio tutelato, patrimonio dell'UNESCO, si va a immaginare un impianto di questo tipo, vuol dire che non vi è, senza alcuna attinenza territoriale, vuol dire che non vi è nessuna programmazione, e se la programmazione non la fa la politica, vuol dire che la devono fare i cittadini, le devono fare le comunità. È per questo che stiamo cercando con la pagina No Biomass in Pestum raccogliere, diciamo, di creare un senso di comunità distante dai partiti e dai movimenti che per 2 anni ci hanno blandito, ci hanno promesso soluzioni miraboliche che non sono arrivate. Infatti sì, abbiamo avuto un decreto attuativo del Consiglio dei Ministri e abbiamo capito che c'è bisogno di creare un senso di comunità. Di comunità, esattamente. Allora, io spero che questo senso di comunità un po' l'abbiamo creato anche oggi, parlando di questo tutti insieme ai microfoni di Radio 24. Invito però tutti anche a ragionare sul fatto che non si può affrontare tutto con sindrome NIMBY, che quindi è vero che c'è il turismo, c'è l'agricoltura, c'è tutto, ma servono anche gli impianti con soluzioni ragionate di green economy su scala vasta. Grazie a tutti coloro che sono stati i nostri ospiti, grazie in assistenza a Christian Goldoni e Roberta Frisoni in regia. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.